C'è una strada nel centro della mia città, dove i portici fanno ombra, ed una volta passava il tram. E negli anni di piombo ci passavano i cortei, ma in quegli anni a casa io non c'ero mai. Siamo passati stasera tardi, nevicava come dentro le cartoline di quel Natale che non c'è più. Non perché c'è più fretta, più soldi in giro o più TV, ma perché siamo più grandi, sia io che tu. È la notte più lunga dell'anno, perdonami se faccio un passo nel tempo distante da te. Pomeriggi lontani di un attimo fa, Santa Lucia dei miei anni facili, di una cena in città con mio padre una sera. Poi un colpo di vita e prendemmo un tassì, e come un uomo lui mi parlò di sé. Sembra passato un minuto da quel momento. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow.